Allora, innanzitutto io devo in maniera non formale ringraziare Gabriella e la Fondazione Basso perché questa iniziativa, che mi dà anche la possibilità di essere presente, ha tutta la mia ammirazione e tutta la mia partecipazione, perché ritengo che l'antropologia sia il tema centrale della nostra cultura, non solo perché arriva a farci capire il destinatario di tutto ciò che noi facciamo, le scienze nuove che elaboriamo, le tecniche, le arti, siamo ad un livello di produzione veramente molto elaborato, però stiamo perdendo la visione chiara di chi è il soggetto destinatario, cioè chi è l'essere umano. E oltre all'obiettivo di questa scienza, l'antropologia, a me sembra che sia il metodo o la lingua che possa unire culture diverse, come diceva Emma all'inizio, no? Questa stranezza del cattolicesimo che va incontro al femminismo. Tuttavia bisogna dire che questa nuova ricerca antropologica, che notare bene per la prima volta nella storia dell'umanità, è un'antropologia duale, e cioè si rivolge, riconosce due soggetti umani, si situa nel momento attuale, che è un momento, un panorama concettuale necessariamente mutato da una parte, perché è stato monoliticamente monista per millenni, e questo lascia le sue tracce. Io vi rimando ai libri recenti dell'Airi Garay, che spiega come noi siamo quasi ciechi dal fatto che siamo imbozzolati in un mondo rispettabilissimo, per carità, perché è fatto dagli uomini, però parziale, e che quindi ci sia da inventare lingue e sguardi nuovi, dice lei, no? E dall'altra, quindi un panorama concettuale mutato, dall'altra un panorama concettuale fluttuante, perché il ritardo, la negligenza nel mettere a fuoco nella nuova antropologia la differenza, e quindi confermare i due soggetti, sta dando luogo ad un appiattimento di un sesso, quello femminile, sull'altro, il dominante, il maschile, oppure sulla stessa negazione di differenza, quale che sia, negli esseri umani. Mi alludo alla sessualità fluttuante, diciamo così, che peraltro è una proposta, diciamo così, molto presente e significativa. Allora, io vado di solito piuttosto in sintesi, di cui questo ha, diciamo, lo svantaggio di fare un discorso piuttosto, diciamo, grossolano, no? Per larghe linee, e anche un po' superficiale, diciamo, però il mio metodo è sempre quello di essere il più breve possibile per lanciare temi che poi chi vuole può riprendere nel dibattito. E questa sera la mia trattazione si svolgerà su due versanti, uno antropologico in senso strutturale, cioè cercando di delineare quello che possiamo conoscere dell'uomo e della donna, ma con un metodo esperienziale, in modo da arrivare ad un duplice profilo identitario che sia suscettibile di vasta condivisione, perché non fondato su ideologie o dogmi. E l'altro storica, che invece, individuando, e questa la mia opinione, le radici della nuova antropologia duale nella questione femminile, cerca di ripercorrere a ritroso però le tracce storiche. Allora, andando indietro, la prima, diciamo, apparizione della questione femminile è un'apparizione, anche se nel XVIII secolo, agli inizi del Settecento, di carattere massmediale, diremmo noi oggi. Il primo giornale fatto da donne che appare in Inghilterra e che viene poi seguito da altri esempi e realizzazioni, soprattutto in Francia, fino alla metà dell'Ottocento. Vedete, corrono. Quando alla metà dell'Ottocento questo fermento di volontà di presenza della donna nell'ambito pubblico, diciamo, sociale, che si appuntava verso due obiettivi principalmente, la soppressione, diciamo, della tutoria maschile e il voto politico, a metà dell'Ottocento confluisce questo movimento, naturalmente nel più ampio movimento marxista, e qui diciamo acquista, o mette meglio a fuoco, direi istituzionalizza il suo lato conflittuale, proprio a livello strutturale, così come il marxismo si pone, come lotta fra le classi, il femminismo si pone come lotta fra i sessi, ed essere donna significa lottare contro l'uomo. Vi pregherei di fare attenzione a questo aspetto conflittuale, perché poi verrà ripreso, diciamo, a mio parere, una delle cerniere del femminismo vecchio e futuro. E però, da un punto di vista invece filosofico, la questione femminile, a mio parere, affonda le sue radici alla fine di quell'epoca che ha testimoniato l'unità del cristianesimo, inteso in quella forma particolarissima che diede vita a una società, a una cultura, a un potere politico che, sia pure con contrasti, si proclamava e si riconosceva nella Respublica Dei. Dio era presente, in tutti gli spazi della vita umana. Alla fine del Medioevo, dunque, a mio parere, si operano a livello filosofico, o comunque della razionalità, tre enormi separazioni. La prima è operata dal giurista Grozio, la seconda da Cartesio, il filosofo, la terza da Lutero in campo antropologico. Allora, Grozio è l'inventore del cosiddetto diritto naturale umano. Il diritto naturale, fin dagli albori del pensiero in Grecia, era naturalmente legato all'idea di trascendenza. Che fosse un misterioso principio unico, che fossero gli dei dell'Olimpo, che fosse successivamente il Dio dei cristiani, diritto naturale era la forma, diciamo, del mondo, la ragione dei comportamenti umani fondamentali predisposti da un principio primo che l'uomo era chiamato a individuare, a leggere, per poi elaborare su questa struttura data le espressioni della sua volontà. Quindi c'era la differenza tra diritto naturale e diritto positivo. Da Grozio in poi, la trovata di Grozio qual è? Quella di fondare questo diritto, che da sempre, no, è il panorama concettuale dell'organizzazione di un popolo, di una società, sulla ragione umana e sulla propensione umana costante alla società, a socializzare. Questo significa che da questo momento non esiste un modo di essere di ciò che è dentro o fuori dall'uomo, che sia dato, ma che è la volontà umana, sia pure per consenso democratico o per autorità assoluta del principe, che decide Che cosa è la struttura fuori dell'uomo e dentro dell'uomo? Su Cartesio non spendo una parola perché sicuramente siete tutti, no, consapevoli di quanto dobbiamo a questo grande pensatore nella rivoluzione che dopo secoli e secoli arriva fino ai nostri giorni, cioè il soggettivismo, anche qui la negazione di una realtà fuori dell'uomo e la capacità infinita a questo punto dell'uomo di pensare, quindi di creare. Molto interessante la separazione operata da Lutero, nonostante il Lutero ovviamente della riforma, il Lutero della contrapposizione, no, al cattolicesimo, che è una separazione antropologica che va a separare antropologicamente la coppia, perché nel momento in cui dichiara invincibile la concupiscenza, cioè la spinta, no? Che fa incontrare i due sessi, condanna la coppia ad essere attratta e soggiogata dalla sola concupiscenza piuttosto che liberamente unita in una comunione vitale. Questo è ciò che spezza la comunicazione sessuale, cioè tra i due sessi, come trasmissione di vita reciproca, in uno stile, diciamo, di complementarietà costitutiva, e fa passare dalla dimensione sponsale di dono alla dimensione contrattuale di diritto. Tutte cose che, a mio parere, sono ancora molto presenti nella nostra cultura. E infine, terzo momento storico, andando a ritroso, e quello che fa da fondamento è il momento in cui, a mio parere, sorge la questione femminile, che è un momento precisamente datato nella storia dell'umanità, ed è nei primi 30 anni dell'era cristiana, cioè con il messaggio di Cristo. Perché si pone, a mio parere, per la prima volta la questione femminile? Perché è in quegli anni che la donna viene riconosciuta antropologicamente pari all'uomo e messa nelle condizioni, vedremo come, di esprimere se stessa con pienezza e libertà. Come proclama Cristo la parità tra uomo e donna? Beh, sappiamo che da Cristo in poi gli esseri umani sono tutti figli di Dio, a prescindere dalle, diciamo, condizioni storico-ambientali, economiche, sociali, anche diciamo fisiche, no? Conosciamo i ciechi. Conosciamo le prostitute, conosciamo i ladri, e conosciamo gli imbroglioni e corruttori del tempo di Cristo, che vengono tutti messi nella condizione di prendere questo status di figli di Dio. Secondo, Cristo mette al centro dell'esperienza umana la relazione d'amore, quando in Matteo 19 proclama che non è lecito all'uomo rimandare la moglie, e Mosè lo aveva permesso negli anni precedenti, nei secoli precedenti, a causa della durezza del cuore dell'uomo. Non commento, ma si potrebbe stare una sera a parlare di questo. Terzo elemento. Cristo santifica l'unione sessuale. Per unione sessuale, lui, e io anche intendo dal punto di vista antropologico, non un incontro per così dire funzionale e parziale, ma l'unione totale di due persone che abbiamo orora definito sessuate, cioè sono ambedue umane, ma con una differenza che si chiama sesso. Da ora in poi vorrei che fosse recepito il termine sesso in questo senso ampiamente antropologico e non semplicemente fisico-funzionale, come invece oggi siamo portati a considerare. A questo punto nasce, o forse viene risolto, il problema della differenza tra i due sessi. Perché? Perché, diciamo, se noi dobbiamo guardare, al femminismo di Cristo, legato prima di tutto alla sua testimonianza fisica, i 30 anni che è vissuto, e poi io mi limito ai primi 4 secoli, cioè i secoli della più violenta forse, ma più genuina e forte elaborazione e testimonianza del suo, non del suo pensiero, di Cristo non si può dire che Cristo ha un pensiero, Cristo è una persona che è Dio e che quindi non si può prendere semplicemente come un filosofo. Cristo è una persona tutta intera, quindi anche i suoi gesti fisici sono importanti. Allora, la differenza, diciamo, che segue alla proclamazione di parità, è una differenza che non tocca il sistema esteriore, giuridico, sociale o culturale. Per esempio, le donne che seguono Gesù e che diventano anche sue collaboratrici, non vengono sanate, diciamo, dalle loro, deficienze sociali. O di salute, e morali sì, ma morali sì perché loro accettano. Qui c'è tutto il lavorio, no, della libertà umana. Cristo lancia, un messaggio all'adultera, cosa dice? Io non ti condanno, va e non peccare più. Noi i particolari non li sappiamo, si suppone forse, no, che non abbia, che si sia redenta, però era liberissima, di continuare. Quello che voglio dire è che questa differenza, diciamo, da ricercare è relativizzata, nella sua valenza antropologica da quella carta identitaria che Cristo dà all'uomo come alla donna e che rivela questo status inedito di figli di Dio, che tradotto in termini antropologici significa essere pienamente umano. Perché solo gli esseri umani sono figli di Dio? Gli altri sono creature di Dio. Voi sapete che adesso c'è una teologia del paradiso degli animali che mi piace moltissimo, che dice che anche gli animali sono mica. Anche gli animali hanno la loro collocazione nell'aldilà, insomma, mi sembra molto logico, no? Certo, gli animali non sono esseri umani, no? Abbiamo delle differenze. Ora, questa identità, questo status di parità, che relativizza le differenze, è, diciamo, comune ed ha il potere di trasformare di dentro. Cosa voglio dire io con questo? Ecco, scusate, vi faccio un esempio. Quando San Paolo, l'Apostolo Paolo, nella lettera a Filemone, gli rimanda lo schiavo Onesimo, lo rimanda a Filemone perché Paolo, è rispettoso giuridicamente dell'autorità che il padrone ha sullo schiavo. Quindi non tocca il sistema sociale e giuridico. Pertanto rimanda lo schiavo al padrone e gli dice semplicemente: ora per te, Onesimo, è molto più che uno schiavo, è un fratello. Cosa significa questo? Che lo status di figli di Dio ha una tale valenza antropologica che, scusatemi l'espressione, se ne infischia del ruolo politico, sociale, fisico, eccetera, perché quello è importante, per carità, ognuno ha il suo corpo, ha il suo tempo, ha il suo spazio, non sottovalutiamo, però non è tutto, perché lo vivifica, lo trasforma, lo relativizza. Perché ho detto questo? Perché per capire se la donna è stata veramente liberata dal messaggio di Cristo, dobbiamo metterci in questa prospettiva che è diversa da quella dei nostri tempi. Io non voglio dire più giusto o più sbagliata, ma è diversa, e immaginare che cosa è stato per quella gente, per quella società, e anche soprattutto per gli uomini, guardare la donna come una consorte, cioè un essere che divide la mia stessa sorte e che ha la mia stessa genealogia. Sì, certo. Proprio perché c'è dignità. No, no, non abbiamo risolto tutto. Aspetti, arrivo alla fine. Cioè, io, mi scusi, non ce la faccio. Va bene. Secondo me, per carità, io la rispetto per la sua cultura, lei sicuramente ne ha tanta, però per un discorso di chiarezza dovrebbe insegnare il catechismo, non parlare di questo. Mi lascia finire? No, lei... Ce la faccio, tranquilla. C'è gente che ci muore, quindi non ce la faccio. Sono stati anche tanti cristiani che sono morti. No, mi scusi, un momento, guardi, questo non è, se lei mi fa finire, forse capisce che non è un discorso, però sempre come, però la sofferenza, per carità, non voglio. Ma faccia finire, anche perché... Lei fa un discorso storico, forse, non è che te chiedi. Forse arriverà anche vediamo questo tema. Adesso sì. Ha una sequenza storica, quindi... Comunque, lei comunque, mi scusi, stiamo sulla storia, ok? Se qualcuno, diciamo, ha... da correggermi. Ma forse io sono vissuta in un altro mondo. Certo, ma non ha vissuto mica i primi secoli, no, lei. Sta parlando dei primi secoli. No, però scusa. No, ma io vorrei capire l'obiezione. Scusate, a parte le differenze. No, a parte quello, se è giusto o non giusto interrompere il problema, voglio dire, lei non sta parlando di oggi, sta parlando della fondazione della uguaglianza degli esseri umani fatta dal cristianesimo. Questo è un dato storico, poi chi siamo d'accordo, no, che sia stata tradita, per esempio, io sono convinto che sia stata tradita. No, io non lo credo tanto. Ma va bene, ma ne discutiamo. Sono ma sì, sono piani diversi, ma lei non può se dire, posso non può dire finire. Oggi non vedo questo. Ma lei sta parlando dei primi secoli. Scusate, io come curatrice dell'insieme di incontri io penso, perché abbiamo organizzato questi incontri? Perché le questioni non sono risolte, né 2000 anni fa, ma neanche adesso, nel senso, noi cerchiamo di ripercorrere in questi incontri alcuni nodi che si sono presentati, e naturalmente le interpretazioni, le chiavi di lettura sono diverse e spesso conflittuali, nel senso che non è necessariamente che possiamo concordare con questo. Sì. Vabbè, questo, scusi, nel momento della discussione, se ci genere... forse possiamo discutere. Ma ci mancherebbe che mi volesse uccidere. No, no, no, quello no, il metodo, scusate. Allora, prima di tutto, no. Prima di tutto di genere si parla esattamente da una quindicina, ventina di anni e non si può riferire il genere a 2000 anni fa. Quindi parliamo di antropologia dei due sessi, quindi l'obiezione, diciamo, è marginale e non va riproposta. Io, scusate, mi sono alzata perché no, perché sì, insomma, preferisco, se non mi dispiace. No, no, no, no, no, no, allora mi siedo, voglio alla pari. Allora, qui però io le ho... Io... vabbè, la passione. Però scusate una cosa, no, però io le obiezioni, anche nel mezzo, io non ho problemi a essere interrotta se opportunamente, ovviamente. Scusa, c'è tanta questione. La storia delle donne è nata proprio per contrastare la visione lineare di una storia che, come dire, dice, vabbè, 2000 anni fa era una cosa, oggi o no. Cioè, la questione del rapporto tra i sessi è transecolare. Cioè, in questo senso è molto più lunga. Cioè, io sono profondamente convinta che ci sono delle questioni che datano da 2000 anni fa e continuano, come dire, a pesare, no? Perché appunto il rapporto tra i due sessi è qualcosa che non si verifica con la concezione, come diceva George Eliot, dice, no, se questa questione si fosse possibile risolverla con le mode che cambiano le acconciature e l'abbigliamento femminile, sarebbe già stata risolta da tempo. Ma tutto questo non basta, cioè non sono né le acconciature né le mode. E neanche i linguaggi sociologici. Sentite, guardate, qui veramente. Allora, scusate, no, siamo in una prospettiva storica. Allora, se lei mi dice che i fatti storici e documentati che io sto riferendo non sono veri, allora possiamo discutere e vedere. Ognuno porta le sue prove, diciamo, no? Ma qui non stiamo in una prospettiva ideologica e questo è il senso del mio intervento. Allora, continuando con questa, diciamo, il discorso era questo, che per la prima volta, e questo è un fatto documentale, se qualcuno ha altri documenti mi riporti, nella storia delle civiltà la donna viene considerata pari all'uomo solo con l'avvento del cristianesimo. E questo in due, prevalentemente e istituzionalmente, in due campi. Il primo è il matrimonio. Per la prima volta l'etica fa da fondamento al diritto e i due coniugi sono valutati egualmente per quello che riguarda la fedeltà al patto. Il tradimento cosiddetto femminile è equiparato, o meglio, il tradimento maschile è equiparato al tradimento maschile. Divieto di ripudio, divieto di divorzio per ambedue, pari valore del consenso dei due soggetti. Nemmeno i romani, che pure avevano fatto un passo enorme nella loro sapienza giuridica, dando alla donna un minimo di soggettività giuridica con il matronato e con un certo assetto giuridico del matrimonio, nemmeno i romani erano arrivati a tanto. E questo è un fatto. Il secondo, se volete, è molto importante, però... se volete, diciamo, riguarda la sfera privata, no? Dei rapporti privati. Ma nel pubblico, questa donna cristiana, e qui so che scatenerò, ve lo dico già prima, ve lo dico prima, questa donna, ma signora, prego, prego. Allora, questa donna nell'ambito sociale, che è quello dell'ecclesia, il ruolo della donna nella Chiesa dei primi secoli. Riflette questa parità? Bene, oggi, ripeto, dovremmo riuscire, ma è impossibile del tutto, a spogliarci dalle nostre forme mentali e culturali, diremo assolutamente no, perché San Paolo ci dice che le è proibito parlare nell'assemblea, le è proibito insegnare in pubblico, deve andare col velo, vabbè pazienza, il velo insomma c'è anche oggi, eccetera. E quindi diremmo noi, non fa il prete, questa donna, ma dove sta questa parità? Allora vi propongo alcune testimonianze che secondo me, sacerdozio, no? Esatto, attenzione, la mia proposta è che questo problema esiste oggi, ma non esisteva nemmeno lontanamente all'epoca, e vorrei cercare di dare la mia interpretazione. Questa donna, quindi sottomessa, tra virgolette, noi sappiamo da documenti, e ve li cito, che è una donna che si vede riconosciuto e rispettato il ruolo femminile dall'uomo. Il ruolo femminile per antonomasia, almeno fino a quei primi quattro secoli, era relegato nell'ambito della maternità biologica. Anche i romani avevano dato alcuni diritti alle donne per rendere la madre certa, diciamo, no? Per avere proprio una chiarezza di discendenza nei cittadini romani. Questa donna si vede riconosciuto questo ruolo dall'uomo, se lo vede riconosciuto con il rispetto che si deve agli uomini che sono sacerdoti nella Chiesa, perché quando Paolo, l'Apostolo Paolo, nella lettera a Timoteo, che è il suo vescovo, quindi siamo ai vertici, ricollega lo status dell'amico Timoteo alla nonna Loide e alla mamma Eunice, non fa una coccola simpatica alle due vecchiette, ma ritraccia, diciamo, l'itinerario antropologico, anche cristiano, di quello che oggi è a capo della Chiesa. Altre testimonianze documentali, le martiri, abbiamo figure di donne martiri, molte schiave, molte appartenenti alle classi più popolari, alcune aristocratiche, che sono considerate e venerate e rispettate per la loro capacità di testimonianza con la vita pari a quella degli uomini. E abbiamo la testimonianza, secondo me molto interessante e significativa, delle intellettuali aristocratiche. Alcuni nomi sono Pulcheria, Marcella, Melania la Vecchia, Melania la Giovane. Cosa fanno queste donne? La risposta è: fanno le donne secondo la cultura del loro tempo e con il vigore ricevuto dal messaggio cristiano, cioè tu sei figlia di Dio. Sono intellettuali, sono molto ricche, svolgono un'attività di relazione sociale pari alle loro possibilità e in pratica diffondono la fede ortodossa. Vi ricordo che siamo nei secoli in cui è così difficile capire il messaggio di Cristo che le eresie sono tante e quotidiane, più o meno importanti, ma fanno parte della vita quotidiana. Queste donne svolgono un'attività di relazione, oggi diremmo tengono dei salotti teologici, con eleganza, invitando tutte le persone più importanti e al loro modo, sottolineo, senza mai pensare di fare il prete, ma a loro modo ed evidentemente con le loro grandi qualità si guadagnano una autorità tale che i vescovi delle loro città non muovono una parola se non, dico non muovono una parola, insomma un po' eccessivo, se sì, chiaro perché non è istituzionale nemmeno, però voglio dire che riconoscono a queste donne una collaborazione in che cosa? Nel fine unico. Qual è il fine di un vescovo? Quello di portare agli altri il messaggio di Cristo. Qual è il fine di Melania che combatte le eresie con i suoi salotti teologici? Quello di portare avanti il vero messaggio di Cristo. Il fine è lo stesso? I modi per rivolgerlo? Sì. Quarto. Esattamente, esattamente. Sia la madre che la figlia sono due appunto aristocratiche intellettuali, è tutto documentato, eh? Ci sono proprio documenti di alcuni padri della Chiesa e di alcuni biografi. E poi ci sono le imprenditrici, quelle che mettono la loro enorme fortuna come Fabiola, Olimpia, la più famosa Olimpia, adesso i numeri non me li ricordo, Olimpia aveva una ricchezza che Bill Gates quasi quasi scompare, perché è proprio riportata in termini monetari e anche di estensione di proprietà, di terreni, eccetera. Queste donne fanno le imprenditrici e cosa fanno? Fanno ospedali, fanno locande per i turisti, fanno monasteri, fanno cattedrali, soprattutto tra Costantinopoli e il nord dell'Africa. Cosa voglio dire io con questi esempi, ripeto, storici, documentali? Che l'autorità della donna nei primi secoli, grazie alla rivelazione del cristianesimo, si esprime attraverso la differenza. Sono donne che non hanno bisogno di farsi uomini per ricevere un minimo di rispetto, ma che riescono, grazie a Dio, è il caso di dirlo, oltre che grazie alle loro capacità, a esprimersi e valere, avere potere nella loro società, in quanto diverse, senza il pulpito, senza il sacerdozio, senza il potere imperiale. Alcune, dico, erano, c'era anche un'imperatrice, mi sembra Teodosia, non mi ricordo. Chiuso questo discorso e passo a un altro terreno minato. Sì. Cosa accade a tutto questo? Un medioevo? Arrivo. Sì, arrivo. Arrivo. Adesso mi posso... Mi posso? No, no, mica rifacciamo tutti i secoli. Guardate, mi mancano solo tre pagine. Sì, in maniera costruttiva. No, in maniera costruttiva. Adesso vi faccio delle proposte, poi vediamo. No, volevo solo accennare che l'altro elemento nuovo che viene col cristianesimo è, se volete, ancora più scottante, perché riguarda la sessualità. Perché nel momento in cui, allora, siamo partati, Cristo riconosce un'antropologia duale, parità tra uomo e donna in relazione e attenzione, relazione di comunione, siamo fuori dal conflitto, Il conflitto c'è ma non lo trattiamo perché non c'è tempo. La visione è quella della comunione. Si capisce bene che se ciò che e connota questa relazione, che è l'unica tra due pari e liberi di scegliersi, è proprio quello speciale modo di mettersi in relazione che la Bibbia chiama una caro, che noi oggi chiamiamo sesso, rapporto sessuale, eccetera. Cioè, questo modo, se conseguentemente ha un valore antropologico, che addirittura pone i due esseri umani in diretta somiglianza con Dio. Il punto di somiglianza con Dio sono uomo e donna amanti, il loro modo di amarsi viene sacralizzato da Cristo. Non a caso, voi sapete, non so se sapete, ma per i cristiani è importante, che l'amore è un sacramento. L'idea del sacro nella sessualità non è poi nuova all'umanità, era stata sempre presente nelle culture di cui abbiamo memoria, soprattutto i greci, ma anche i sumeri, cioè da quando ci sono documenti, questa idea del sacro, legato a questo mistero della vita e dell'amore che si esprime attraverso il sesso, nella cultura greca aveva anche il nome di un dio, Eros. Quindi voglio dire che la sessualità con il nuovo messaggio diventa nello stesso tempo un'opportunità e una grossa difficoltà. La comprensione della sessualità nel messaggio di Cristo sta avvenendo, forse comincia, ai nostri giorni. Il mondo non era, forse non è mai preparato a capire la pienezza umana della sessualità, la sua sacralità, e il mondo di allora era un mondo maschile che si vede predicare la verginità maschile, cioè una cosa inconcepibile. Tant'è che i primi, a cominciare da Paolo, spendono fiumi di inchiostro per raccomandare, spiegare, incoraggiare la verginità, perché era la cosa più impensabile da promuovere. E perché, certo, il mondo era maschile e con molta difficoltà l'uomo cristiano si è adattato, diciamo, a considerare alla sua pari, anche in questo aspetto, la donna. Bene, solo, dicevo, ai giorni nostri, con dei documenti specifici, l'ultimo dei quali è Deus Caritas Est del Papa attuale, si opera concettualmente la comprensione di come la caritas cristiana, che è l'amore, il mandatum novum di Cristo, cioè amatevi come io vi ho amato, questo amore generoso di donazione, si coniuga con l'eros. Cioè la famosa, nota e sempre attuale, attrazione passionale ed emotiva che è alla base dell'amore tra uomo e donna, perché altrimenti parliamo di un'altra cosa, parliamo di un contratto, parliamo di un'amicizia, parliamo di un'altra cosa. Bene, su questo non mi soffermo. Adesso faccio una piccola, diciamo, come diceva Gabriella, incursione in un altro campo di conoscenza, che è la conoscenza artistica. Finora abbiamo fatto un po' i documenti storici. La conoscenza artistica, cioè l'esperienza artistica in tutti i tempi, proprio esattamente come diceva Gabriella, in tutte le culture, invece manifesta una persistenza di costanti antropologiche. È come se la conoscenza artistica, peraltro da notare bene, che ha come interpreti, soprattutto nell'antichità, soli uomini, dimostra di avere chiarezza di idee non solo su uomo e donna, ma sul nodo, cioè la loro relazione, perché l'arte, da sempre, in tutte le sue forme, parla di che cosa? Parla d'amore, anche quando parla di guerra, parla d'amore. E qui voi capite che non mi soffermo, no? Semplicemente faccio presente che la donna è in questi artisti uomini l'esperienza più importante, che l'amore è declinato in tutte le note, passione, dolore, vita e morte, e che l'artista uomo dimostra una sapienza antropologica, un rispetto, una comprensione che rimane incomprensibile rispetto all'ethos maschilista della società in cui vive. Pensate ai tragici greci. che vivevano in una società i cui fari illuminati, Aristotele e Platone, avevano un'idea della donna che era avvilente, e noi abbiamo un Antigone, una Medea, un'Elettra, un'Elena, un Alcesti, che sono delle donne a tutto tondo, ancora vive oggi, ma non solo perché le andiamo a vedere al teatro, perché ci parlano della donna. E così via, poi fino ai latini, no? Io mi sono segnata qui un epigramma terribile di Marziale che dice: inferior matrona suo sit marito, non aliter fiunt femina virque pares, cioè la donna stia sotto al marito, sottomessa al marito, perché questa è la parità tra uomini e donne, questa era Marziale, no? Comunque, questa l'esperienza artistica nei tempi e nelle culture fino a... No, dicevo, quella citazione non dice che quella è la parità che lui sostiene, sì, tra uomo e donna. Sì, no, dice questo, no, lo potevo diversare. Perché queste osservazioni di carattere storico che sono fondamentali per arrivare poi... in verità va visto nel contesto di una società che ha determinati valori. E il valore antropologico fondamentale è nell'origine stesso del rapporto uomo-donna, in cui si determina la superiorità dell'uomo solo perché è il guerriero, è quello che va a caccia. Per cui la donna, questo viene trasportato storicamente. Sì, sì, sì, però quello, il mio intento a volo di, è soltanto quello di rinvenire le tracce nel pensiero di tutti i tempi, di tutte le culture, delle stesse costanti antropologiche, cioè uomo, donna messi a fuoco, la loro relazione messa a fuoco, e la loro relazione, guardate, mi riferisco, non che io abbia studiato tutte le culture, però diciamo un occhio l'ho buttato anche in Oriente e nelle culture musulmane, quello che stupisce è che l'amore che si canta è sempre unico, assoluto, per sempre, fedele. L'infedeltà è urlata, diciamo, e pianta anche dalle culture, si parla di uomini, no? Tipo quella islamica. Eterosessuale, e qui non vorrei che si sorprendesse nessuno, perché l'omosessualità era molto più dilagante nel mondo antico che non sia quello di oggi, però di questo si parla quando si parla d'amore, e infine una esperienza che è capace di distruggere. La morte per amore o per tradimento. Bene, concludo. Adesso concludo.